un campo di calcio, due squadre, un pallone. Ogni partita poi passa alla storia di chi la segue con tanta emozione, racchiusa nel cuore e nella memoria. Sono nostri figli, i ragazzi sul campo, regole in gioco come la vita. Una squadra è chiamata col nome di un santo, Ceredo alla zona che l'ha partorita. Simbolo in campo, un'ape sul petto, forza operaia, sali più in alto. Brivido dentro, è questo l'effetto, la qualità ha avuto il suo salto. Vincere ancora, poi passi alla storia, sudore in campo di giovani eroi. Restare uniti per la vittoria, nella sconfitta ci siamo anche noi. Ogni partita è fatica e tensione, forza ragazzi, noi siamo con voi. L'attimo è vostro, così l'occasione, adulti domani col passato d'eroi. Regalaci ancora un'altra emozione, forza Ceredo, vinci per noi. Nella fatica la tua lezione, futuri ricordi di giovani eroi.